Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Il sacerdote che vegliava l'agonizzante alzò ad un tratto le braccia al cielo. S'udì lo scoppio di pianto della principessa, i gemiti delle donne di servizio, i sospiri della marchesa e di Lucrezia. Solo Teresa non piangeva, neppure la duchessa Radalì e donna Ferdinanda in verità. Tutti sfilarono dinanzi al cadavere baciandone la mano. Michele, fattosi vicino a Consalvo, gli stringeva la mano mormorando «Coraggio!». Egli stava per rispondere qualcosa quando udì una voce. «Eccellenza!». Era il portinaio che gli faceva cenno di dovergli parlare. «Permetti», disse al cugino, e avvicinarsi al servo credendo di chiedesse qualche ordine. «Che disgrazia, eccellenza! Suo cugino il barone, il cognato della duchessina!» «Giovannino?» esclamò egli non comprendendo. «S'è ammazzato! È morto! Orora! È venuto orora il cameriere della duchessa! L'ho lasciato a basso! Morto! Con una pistolettata! Per avvertir prima vostra eccellenza, bisogna mandare qualcuno!» Un sospiro di terrore d'ambascia sfuggì dal petto di Consalvo. Il figlio del pazzo, la pazzia, la morte violenta. Ad un tratto si scosse e strinse il braccio al servo. «Non una parola a nessuno, capisci? Andrò io stesso. Aspetta il mio ritorno. Non dire che sono andato fuori». Sentiva di dover fare qualcosa. Alla pazzia, al suicidio del cugino non era estranea Teresa. Egli non sapeva in qual misura, ma era certo che non la sola eredità, non la sola malattia avevano sconvolto il cervello del giovane. Bisognava dunque nascondere il suicidio per Teresa, per la famiglia, per la gente. E appena giunto a casa Radalì, appena entrato nella camera dove il cadavere giaceva per terra ai piedi di un divano sotto un trofeo d'armi, esclamò dinanzi alla servitù costernata: «Ah, quest'armi maledette! Credeva che il revolver fosse scarico. Povero Giovannino, che disgrazia!» Nessuno osò rispondere. Prima che sopraggiungesse la giustizia, egli tolse l'arma che il morto stringeva nel pugno, ne cavò le 5 cartucce rimaste e la ripose in mano al cadavere. E al pretore, che saputa la morte del principe Giacomo, gli diceva con aria dolente: «Signor principe, che disgrazie! 2 in una volta! Non pare credibile!» «Non pare, davvero», confermò egli con chiara voce, interamente rassicurato. Il signor principe, che gli dava per la prima volta il magistrato, gli rammentava che una nuova era s'apriva per lui. La fermezza di cui aveva dato prova, la prontezza con cui aveva visto quel che doveva fare, lo rassicuravano. Egli non aveva paura di cadere nelle pazzie degli Uzeda. Dei suoi aveva soltanto la ricchezza e la potenza. E l'inganno in cui trascinava la giustizia non era l'ultimo motivo della sua compiacenza. Egli diceva al pretore: «Il mio povero cugino era solo in casa, aveva la passione delle armi e credette che questo revolver fosse scarico. Invece, guardi, c'era una sola cartuccia dimenticata». Le due duchesse stettero un mese fra la vita e la morte. Il dolore della madre fu terribile, poiché la vide nella spaventosa disgrazia la mano di Dio. Quella morte era stata permessa affinché ella scorgesse il proprio errore e misurasse la colpa commessa, disamando, trascurando, disprezzando quel poveretto. Ella aveva quasi calcolato sulla morte di lui, perché l'altro ne godesse. Non s'era neppure ravveduta la prima minaccia, quando lo sventurato era stato sull'orlo della fossa. Così, dinanzi al cadavere sanguinoso, una mano l'aveva atterrata. Recuperati i sensi, le sue lacrime non cessarono più. Nel vedere il muto, inconsolabile dolore dell'altro figlio, le crisi di pianto quasi quasi la soffocavano. Quanto alla duchessa Teresa, tutti furono meravigliati della forza straordinaria che dimostrò nei primi momenti. Le sue disgrazie, che mettevano in lutto 2 famiglie, colpivano lei più di tutti, perché ella faceva parte di entrambe. Pure nelle primissime ore, mentre gli altri perdevano la testa, ella diede prova di una resistenza incredibile. Chi alla notizia della morte del barone rimase insensibile parve quasi naturale, perché ella aveva già chiuso gli occhi al padre ed era quindi sotto il peso di un dolore più grande. Solamente Consalvo non riusciva a comprendere come la nuova sciagura, che impressionava gli altri per la tragica coincidenza con la prima e più per la sua imprevedibile rapidità, non scotesse la sorella, non le procurasse un moto di stupore, quasi ella l'avesse prevista. Una mattina, con Salvo, prima d'uscire, passato a chiedere alla sorella se aveva bisogno di nulla, la trovò con la madrigna, la duchessa e Michele. Appena entrò, si volsero tutti dalla sua parte, taciturni, con aria grave. Teresa, con la testa sollevata da un monte di guanciali, sul cui candore il suo viso emaciato pareva di cera, disse con voce lenta e fioca, come stanca: «Ascolta, Consalvo, siedi un momento. Abbiamo da parlarti». Egli sedette, aspettando. «Ascolta, abbiamo parlato di una cosa che ti riguarda. Nostro padre, tu sai che nostro padre, in un momento di collera, volle preferirmi a te. Io non credo che questa potesse essere la sua volontà vera. Se il Signore non ce lo avesse tolto, egli l'avrebbe certo modificata. Io ho detto a Michele e alla mamma che in coscienza non posso accettare quel che ho avuto in tali condizioni». Tacque un poco, poi aggiunse: «Dite voi, non posso». Un momento di silenzio. La duchessa aveva gli occhi pieni di lacrime, scrollava il capo amaramente. Consalvo disse: «Perché parlare di questo adesso?» Le parole della sorella, quella rinunzia all'eredità, lo lasciavano del tutto indifferente. Da un pezzo erasi abituato all'idea di non avere altro dal padre che la legittima. Piuttosto lo stupiva un poco il magnanimo disinteresse di Teresa, che il cognato e la zia approvavano. «Ma perché ora?» ripeté Consalvo. «Insomma, se Teresa rinuncia al testamento, divideremo ogni cosa ugualmente. Va bene così?» Egli provò una commozione indefinibile. Era il piacere di trionfare della volontà del padre, l'orgoglio di poter restare nella casa degli avi, la paura di dovere qualcosa in cambio alla madrigna. Infatti Teresa continuava: «La mamma rinunzia alla casa, prenderà invece un'altra proprietà o un compenso in denaro». «Per me?» esclamò la principessa Graziella. «È lo stesso. Io desidero che tutto si faccia d'accordo, che la famiglia sia sempre unita». La divisione fu cominciata al ritorno dei Radalì. Teresa volle che tutti i feudi storici restassero al fratello, contentandosi delle proprietà di fresco acquistate, delle rendite, dei capitali, dei crediti diversi. In cambio, Consalvo volle che di questa differenza tutta morale fosse tenuto conto nella valutazione delle terre. E mentre Consalvo pensava ai casi suoi, inquieto per quel mutamento, per quella rivoluzione morale da lui invocata ma avvenuta un po' troppo presto, Giulente non vedeva nulla, non s'accorgeva di nulla. Fiutava le pedate al duca come all'oracolo di 20 anni addietro, aspettava di raccoglierne l'eredità, parlava ancora della destra e di Cavour, era sicuro che i nuovi elettori avrebbero dato il gambetto al governo della riparazione, restaurando il principio moderato. Consalvo non si occupava di lui, lo disprezzava talmente che certe volte quasi gli faceva pena. Riconosciuta la necessità di presto mettersi all'opera, egli affrettò una risoluzione che aveva già presa da un pezzo: rinunziare all'ufficio di sindaco. Non solo aveva bisogno d'essere libero, ma gli conveniva evitare un grave pericolo, che prolungando il suo soggiorno al municipio, il vantaggio ottenuto andasse perduto e si mutasse in danno irreparabile. Afferrò quindi il primo pretesto per battersela. La sera stessa, andato a casa, egli scrisse 2 lettere, una al prefetto, con la quale rassegnava le sue dimissioni, l'altra collettiva a tutti gli assessori, annunziando loro che, per ragioni di delicatezza, aveva già mandato la rinunzia alla prefettura. Fu come un fulmine a ciel sereno. «Delicatezza!» esclamò Giulente, a cui tutti gli altri chiedevano spiegazioni. «Che delicatezza? Io non capisco!» «È un tradimento!» vociferavano i più accaniti. «Un nero tradimento! Ci siamo lasciati giocare da cotesto birbante!» Benedetto, come parente dell'accusato, crede doveroso avvertire: «Calma, di grazia, ma perché tradimento? Che interesse avrebbe?» «Come che interesse?» E allora gli cantarono sul muso: «Ma non capite, non capite che vuole essere deputato e che ci pianta vedendo pericolar la baracca ora che ha sfruttato la situazione, ora che ha altro da fare con le elezioni imminenti?» E il duca? Il duca che gli aveva tante volte promesso di lasciare a lui ritirandosi l'eredità politica. Il duca, dal quale gli corse, gli disse: «È vero, t'avevo promesso il mio appoggio, ma in altri tempi, quando non potevo prevedere la situazione attuale. Ora che si presenta Consalvo, capisci tu stesso in che imbarazzo mi trovo». Allora Giulente corse da Consalvo. Era in uno stato d'esasperazione violenta. Dinanzi al vecchio non aveva osato infrangere l'antico rispetto, ma sentiva il bisogno di sfogare, di dire il fatto suo a quel birbante. «Tu hai fatto questo! Hai fatto questo per i tuoi fini, per lasciar nell'imbroglio me, per rovinarmi, per prendere il mio posto!» Il sangue montò alla testa di Benedetto. «Siete tutti d'una razza!» gridò improvvisamente. «Tutte birbe matricolate!» Consalvo lo guardò un momento nel bianco degli occhi. A un tratto gli sparò una risata sul muso, gli voltò le spalle e scomparve. Giulente arrivò a casa senza sapere da che parte c'era venuto. Strappò il campanello e entrò come uno spiritato. Lucrezia, sdraiata sopra una poltrona con le mani sulla pancia, lo guardò un poco curiosamente, poi disse: «Che hai?» Egli le si piantò dinanzi, con gli occhi fuori dell'orbite. «Che ho? Che ho? Ho che sono una massa di infami traditori!» «Ma chi?» «Chi? Tuo zio, tuo nipote, i tuoi parenti, quella mala razza, che maledetta sia l'ora e il giorno!» Ella lo guardava sempre come un oggetto strano e ridicolo. Thank you. Dietro l'uscio, il giorno innanzi, Lucrezia aveva compreso dai discorsi degli assessori il tiro giocato da Consalvo a suo marito. Aveva capito che Benedetto non poteva essere deputato. Nel primo momento era rimasta in lei l'avversione per il nipote, per quegli Uzeda che pareva avessero giurato di schiacciarla e pretendevano accaparrare tutto per loro. Quasi che il suo torbido cervello avesse bisogno di una scossa materiale per funzionare regolarmente, ella disse subito tra sé: «Ha ragione! Ha ragione! È Consalvo! È lo zio! Mi vogliono schiacciare! Chissà che cosa credono, d'essere padroni di tutto!» Ella se ne andò, ma aveva appena chiuso l'uscio che lo riaprì. «Non t'angustiare», disse al marito. «Deputati, non se n'ha da fare uno solo. Ti presenterai anche tu e vedremo chi è più forte, o lui o noi». La situazione del collegio era questa. Smantellata la rocca affaristico-conservatrice che per 20 anni aveva sostenuto il duca d'Oragua, sbaragliata l'associazione costituzionale, in dissoluzione la stessa progressista, floride battagliere, le società operaie, trovavano finalmente nel voto l'arma con la quale poter scendere in lizza. Mentre tra la classe borghese, gli antichi moderati, gli ammiratori di Lanza e di Sella erano costretti a nascondersi, le nuove falangi di elettori parlavano di più grande libertà, di più radicali riforma e di repubblica e di socialismo. Ma queste parole spaventavano i progressisti timorati e potevano spingerli tra le file dei conservatori, dar nuova vita al boccheggiante moderatismo. Il posto più vantaggioso era dunque tra i progressisti e i radicali. Consalvo di Francalanza lo prese immediatamente. La sua iscrizione al partito di sinistra, la sua rottura con lo zio dopo la rivoluzione parlamentare del 1876, legittimavano il programma ultraliberale che egli veniva annunziando. La sua teoria era quella del progresso che mai non s'arresta. Ma se vedeva pender dalle pareti ritratti di Garibaldi o di Mazzini, insisteva sull'urgenza di più ampie libertà richieste dallo spirito dei tempi. E se vedeva quelli della famiglia reale, riconosceva la necessità di andare coi calzari di piombo. Una dozzina di società lo elessero seduta stante presidente onorario. Egli ringraziò per l'insigne onore di cui sarei indegno se non avessi da fare valere l'immenso affetto per gli operai, i cui miglioramenti, il cui benessere, la cui felicità sono stati e sempre saranno lo scopo della mia vita. Dopo i discorsi ufficiali, egli soggiungeva: «Quando avrete bisogno di me, quando verrete in città, rammentatevi che la mia casa è vostra». Esaurito quel primo punto del suo programma, egli passò al secondo, cioè all'accordo con gli altri candidati. Per 3 seggi c'era una dozzina d'aspiranti, ma tolte le pretensioni ridicole come quella di Giulente, restavano, oltre la sua, 4 candidature serie. L'avvocato Vazza, che aveva un'estesissima clientela e si presentava con programma liberale, senza indicazione di partito parlamentare. Il professor Lisi, ex presidente della Progressista, e perciò con idee di sinistra. Giardona e Maracenò, radicali. Consalvo si mise in relazione col primo di questi due, che era il più temperato, per un'azione comune. Non di meno, i fautori di Giardona vollero dichiarazioni esplicite. Egli si impegnò a dare il suo voto a tutte le riforme chieste dal partito e soprattutto alle riforme sociali. Andò a dire in mezzo a loro: «Io sono socialista!» Un perito agrimensore compose un opuscolo intitolato «Consalvo Uzeda, principe di Francalanza, brevi cenni biografici». E glielo presentò. Egli lo fece stampare a migliaia di copie e diffondere per tutto il collegio. Il ridicolo di quella pubblicazione, la goffaggine degli elogi di cui era piena, non gli davano ombra, sicuro com'era che per un elettore che ne avrebbe riso, 100 avrebbero creduto a tutto come ad articoli di fede. Thank you. Sul punto d'entrare nel salotto di Teresa, Consalvo udì una voce squillante che diceva: «L'ho detto a tutti, non mi stancherò di ripeterlo. Cada Sansone con tutti i Filistei!» Era la zia Lucrezia. Egli si fermò ad ascoltare. «Vostra Eccellenza mi perdoni», rispondeva dolcemente Teresa, «ma parlare così contro suo nipote...» «Mio nipote? Che nipote?» vociferava l'altra. «A lui dunque fu permesso trattare così mio marito? Pan per focaccia, dice il proverbio. Benedetto non risulterà, ma neppur lui. La vedremo. Piuttosto mi meraviglio di quella bestia di Monsignore. Zia, di quel bestione di Monsignore che non vuole appoggiare mio marito. Invece di fare il gioco di Vazza, dovrebbe sostenere Benedetto, che è sempre stato moderato e perciò più vicino ai clericali». Contenendo le risa, Consalvo entrò. Appena lo vide, Lucrezia levassi. «Ti saluto, ho da fare», disse alla nipote. E senza guardarlo, quasi non l'avesse scorto, ma calcando la voce e passandogli dinanzi gonfia e impettita, ripeté: «Riderà bene chi riderà l'ultimo!» Teresa non rispose, fece solo un gesto di sovrano compatimento. «E che voleva da te? Ti parlava dell'elezione?» «Sì». «Voleva il tuo voto, ah!» «No, credeva che io potessi giovarle». «E che le hai risposto?» «Che non posso nulla». «E per me?» soggiunse rapidamente Consalvo. «Per nessuno, fratello mio, io non mi occupo di queste cose». «Ma i tuoi monsignori?» esclamò egli sorridendo. «Né io né essi parliamo di queste cose». «Di che parlate allora? Spiegami un po'». «Parliamo in questi giorni d'un grande miracolo che il Signore ha permesso. Non hai sentito discorrere della serva di Dio?» Egli sapeva qualcosa, così in aria, d'un preteso prodigio avveratosi in persona d'una contadina di Belpasso. Ma Teresa, senza aspettare la sua risposta: «È un'umile contadinella», proseguì, «che vive in una casupola col padre e la madre, nelle campagne di Belpasso. È stata sempre religiosissima, ma da qualche tempo si manifestano in lei i segni della grazia. Tutti i venerdì, dopo essere rimasta 3 ore in ginocchio, le appariscono sul corpo le stimmate di Nostro Signore. Ella esala un odore d'incenso suavissimo e dalle sue labbra...» «Questi li chiami segni della grazia, ma sono fenomeni isterici». «Consalvo, sai che mi duole udirti parlare così». «Andiamo, non si può scherzare. Ma tu credi sul serio?» «Credo», rispose brevemente. Egli la considerò un poco. Voleva dirle: «A chi la dai a intendere? Sei ammattita come tutti i nostri». Ma non era venuto per questo. «Delle elezioni dunque non parlate?» «No, sono questioni che io non capisco. E poi la Chiesa non partecipa a queste lotte». «Né eletti né elettori, eh? Eppure i tuoi padri spirituali si danno un gran da fare per un certo avvocato». Ella alzò il capo e socchiuse gli occhi, quasi ispirandosi. «Nascerà», disse, «un gran monarca, dalla diretta progenitura di San Luigi di Francia, e si chiamerà Carlo. Egli farà dell'Europa 7 regni e rimetterà il Santo Padre sulla cattedra di Pietro». Questa volta Consalvo non riuscì a frenare le risa. «E sa da chiamare proprio Carlo? E perché non Filippo, Ignazio, Epaminonda? Ma dove diavolo peschi simili fandonie?» La pazzia soggiogava anche lei. Prendeva la forma religiosa. Diventava misticismo isterico. Tutti ad un modo, tutti. Egli solo si stimava savio, forte, prudente, immune dal vizio ereditario, padrone e giudice di se stesso e degli altri. Una sera, facendo il giro delle sale, Consalvo vide una faccia nuova che rassomigliava tuttavia... a chi? A Baldassarre, il suo antico maestro di casa. Ma i favoriti erano scomparsi e invece sulle labbra già sbarbate dell'ex servitore cresceva un grosso paio di mustacchi tinti come stivali. «Grazie dell'adesione», gli disse Consalvo stringendogli la mano. «Niente. Dovere», balbettò Baldassarre. Uscito dalla casa del principe, il maggiordomo s'era buttato alla politica, aveva abbracciato la fede democratica e presiedeva ora una società operaia di mutuo soccorso. Signor principe, non gli dava più per democrazia dell'eccellenza. La nostra società ha fatto iscrivere una cinquantina di elettori, sono tutti nostri. La ringrazio, non so come ringraziarla. Si figuri, per carità, dovere. Vinceremo certamente, la vittoria è nostra. Accetto di cuore l'augurio cortese. E Baldassarre, dimenticato il torto che gli aveva fatto il principe defunto, si fece in quattro per assicurare il trionfo del principino e divenne in breve uno dei suoi luogotenenti. Egli faceva i suoi rapporti a Consalvo, ne riceveva le istruzioni, gli dava a sua volta consigli. E il padrone e il servo erano scomparsi, sedevano a fianco alla stessa tavola. Il principe passava la carta e la penna all'antico creato e si davano del lei come due diplomatici stipulanti un trattato. Lisa Natoli ha letto I Viceré di Federico De Roberto, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Lidia Riviello, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.